Anche Emanuele nei suoi dati ha citato l'importanza delle relazioni con i familiari, delle relazioni con gli amici come uno dei fattori protettivi. Questo è un aspetto che abbiamo provato a indagare parecchio, nel senso che, ve lo dicevo all'inizio, noi siamo animali sociali, il tema delle relazioni con gli altri è fondamentale nella nostra vita e è fondamentale ancora di più oggi in questo processo di crescita degli adolescenti, soprattutto perché siamo in una società che è fortemente individualista, quindi o riusciamo a scardinarla ricostruendo relazioni e quindi riuscendo attraverso le relazioni a portare fuori da questo individualismo, altrimenti rischiamo una chiusura su se stessi che poi comporta il crescere della vergogna, dell'ansia e di tutto quello che abbiamo visto. Allora, il tema delle relazioni con gli altri hanno a che fare anche con la capacità che come adulti abbiamo di dare uno sguardo di fiducia ai nostri adolescenti. Perché è nello sguardo di fiducia dell'adulto che l'adolescente riesce a costruire un'identità positiva e quindi un'identità che agisce anche da fattore protettivo. Ecco, io su questo darei la parola a Elena Marta, che sicuramente è in grado di entrare e spiegarci molto più nel dettaglio tutto questo. Grazie, buonasera a tutti. Riparto un po' dalla relazione di Emanuele, provando appunto a cogliere la sfida e lo stimolo di Massimo, ma di collegare quella sfida con i dati di Emanuele, perché spesso, ovviamente l'abbiamo anche teorizzato nella ricerca, no? Avete sentito l'importanza dello sguardo dell'altro sull'adolescente. Siamo in contatto con adolescenti che, come tutti gli adolescenti ovviamente, sono guardati, ma forse più che nel passato percepiscono questo sguardo come uno sguardo giudicante, come uno sguardo valutante o a volte svalutante. Avete visto i dati che appunto Emanuele ci ha presentato in maniera molto chiara e precisa, ci fanno vedere un quadro molto composito, no? Sono degli adolescenti che hanno un'alta soddisfazione di vita, che si riconoscono delle competenze, ma hanno anche delle fragilità che cercano di compensare nel modo che è più prossimo, più facile per loro o che gli è possibile. Esistono tante adolescenze e ciascun ragazzo nella fase di crescita della sua adolescenza vive momenti e situazioni diverse. Allora, che cosa può aiutare un adolescente a soffermarsi su una posizione, a costruire alcuni aspetti del suo vivere piuttosto che non altri? Proprio lo sguardo dell'adulto, ma soprattutto quello che l'adolescente percepisce nello sguardo dell'adulto. Sicuramente ci sono adolescenti che fanno fatica, ma l'impressione è che quella fatica degli adolescenti, o che gli adolescenti hanno fatto in tutte le epoche, oggi venga letta rispetto a questi ragazzi con un po' di sfiducia maggiore da parte degli adulti di quanto non avvenisse nel passato. Se voi semplicemente entrate su internet e digitate adolescenti, le prime cose che vi emergono sono come sopravvivere l'adolescenza, come da addetti ai lavori puoi trattare l'adolescenza, la fatica di stare con un adolescente, come se noi adulti riuscissimo a cogliere di quella fase della vita solo le criticità, solo gli aspetti che non funzionano, e ce ne saranno di criticità, perché è una fase della vita che ha delle sfide, le avete viste, notevoli. Ma se a fronte di queste sfide notevoli io ho un adulto che anziché cogliere anche le mie capacità, anziché cogliere anche i miei talenti, anziché consentirmi anche talvolta di sbagliare, ho un adulto che assume o una funzione protettiva o una funzione valutativa, a volte svalutativa, come posso io riconoscermi le competenze che pure ho? Come posso valorizzarle? Come posso sentirmi capace di crescere quando sento su di me uno sguardo che invece mi porta in una direzione differente? Per carità, lo sappiamo benissimo, gli adolescenti di oggi sono adolescenti che non tanto per colpa loro, ma qui dico, io dico sempre anche la generazione adulta, due o tre conti li deve fare, vivono molto nel privato, come vivono anche molti adulti nel privato, no? Gran parte della vita è ricondotta all'ambito del privato e sostanzialmente all'ambito della famiglia, l'abbiamo anche visto, ci sono la figura di riferimento fondamentale è quella dei genitori, e questo va benissimo, ma il problema è quando questo rimane il contesto in cui, l'unico contesto, io posso sentire di avere uno sguardo benevolente, o talvolta, anche in questo contesto che rimane per me l'unico significativo, non ho uno sguardo benevolente, non ho in altri termini uno sguardo di fiducia. Perché quello che in questo vi propongo una lettura che non è una lettura mia, è una lettura di un amico, Gino Mazzoli, che qualcuno di voi avrà già incontrato e che spesso lui ha fatto, quello che colpisce molto di questa generazione è che questa generazione si è trovata di fronte a due sfide che le generazioni passate non avevano. La prima sfida è quella di sentirsi dire che questa generazione ha tutte le opportunità. Quindi io ti guardo, di te vedo le criticità, ma ti dico anche, uè bambino, con internet sei collegato con tutto il mondo, ti faccio studiare inglese, francese, tedesco e spagnolo, ti mando equitazione, ti faccio fare hockey su ghiaccio e il triplo salto mortale, ti mando in vacanza in tutti i posti interessanti e importanti, ti ho dato tante competenze, come se le competenze fossero qualcosa che si apre una testa e si mettono dentro, anziché, come ci siamo detti nel gruppo di ricerca, delle qualità interiori da far crescere, a questo punto, di fronte a questa bulimia di opportunità, se non le cogli, sei tu che non sei capace di coglierle. Capite lo sguardo svalutativo? Ti ho dato tutto, santa polenta. Accanto a questo, ti ho dato tutto, e quindi tu devi essere capace di essere iperperformante così come oggi è necessario che tu sia. Perché è questo che noi gli chiediamo. Da qui anche questa drammatica paura del futuro, no? Per entrare nel mondo del lavoro devi sapere 20 lingue, devi saper socializzare, devi aver imparato tutte 15 le soft skills, sono 10 ma poi ne possiamo aggiungere 3, 4, 5, 6 a seconda di chi ci sta facendo il corso di formazione sulle soft skills. Le devi avere tutte nella tua mente, devi tutto fare perfettamente, perché questa è una società in cui l'errore è il fallimento, l'errore è la frustrazione. Ma poveri ragazzi, altro che ansia da prestazione, viene a me l'ansia. Ci siamo? Allora, noi chiediamo questo e di fronte alla fatica che questi ragazzi cercano di fare comunque per in un qualche modo cogliere, rispondere al nostro mandato, il nostro sguardo è uno sguardo di valutazione, è uno sguardo che vede solo quello che non funziona. Io, genitore, devo sopravvivere alla tua adolescenza. Ma quando mai? Ma tu, genitore, hai la responsabilità di far sopravvivere l'adolescente alla sua adolescenza. Non tu, genitore, ti interroghi su quanto tu puoi sopravvivere. Perché allora mi stai dicendo, e questa fatica la devo cogliere, che ci sono delle fatiche educative che poi si riversano su questa fascia. Allora, quello che abbiamo provato a fare in questa ricerca è quello anche di provare a tenere insieme gli sguardi, no? Di provare a guardare a questi ragazzi con le loro fragilità, ma anche assumere un approccio che ci consentisse di provare a svelare le capacità e le competenze di questi ragazzi. Perché, guardate, nella ricerca si va trovando quel che si cerca. Ok? Quindi, se io vado a cercare solo ciò che non funziona, sicuramente troverò solo quello che non funziona. Se invece provo a tenere insieme gli aspetti, perché questo fa parte della vita, e quindi a cercare ciò che funziona e ciò che non funziona, sto usando una metafora funzionalista che non mi piace, ma che credo sia chiara, diciamo ciò che consente di crescere, ciò che aiuta a crescere e ciò che rende più difficile la crescita, allora sì, riesco a cogliere la pienezza dell'umano in questi adolescenti ed aiutarli a farla venire fuori, a farla maturare questa pienezza, che è fatta di luci ed ombre, così come per tutti noi. Loro non sono nient'altro che lo specchio di ciò che noi siamo, nelle loro fragilità e nelle nostre fragilità. E allora questo sguardo vuol dire capire che cosa, prima dicevo uno sguardo benevolente, no? Uno sguardo benevolente è uno sguardo, possiamo andare un po' più a fondo, perché non è buonismo, ma è uno sguardo basato sulla fiducia. Guardate che la fiducia è un costrutto molto importante, perché la fiducia è la base delle relazioni. Noi sociologi, gli antropologi, tutti diciamo, la fiducia è il collante sociale. Non ci può essere relazione se non c'è fiducia. E allora volevo proporvi una definizione di fiducia che a me è piaciuta molto, che dice: la fiducia è uno stato psicologico, è qualcosa che si costruisce nel tempo che io ho dentro. Non apro la testa di un ragazzo e gli metto dentro la fiducia. La fiducia si costruisce giorno per giorno. Perché la fiducia è uno stato psicologico, ma che si costruisce nella relazione, caratterizzato da aspettative positive nei confronti del comportamento dell'altro. Quindi io mi fido dell'altro. Quando posso costruire delle aspettative positive, mi aspetto che l'altro prenda le parti più belle e meno belle di me, le luci e le ombre, le custodisca, mi aiuti a crescere. E guardate l'ultimo pezzo di questa definizione, che è quella che a me piace di più, e include, lo ridico in questo pezzo, la capacità di sentire, di accettare, di sentire accettata la propria vulnerabilità. Le relazioni di fiducia sono tali perché chi si affida all'altro è consapevole della propria vulnerabilità e sa che l'altro potrà trattare questa vulnerabilità. E potrà restituire questa vulnerabilità come una crescita, non come uno sguardo giudicante che dice non sei capace di fare questo. Ma io alla tua età da adolescente facevo questo, questo e quest'altro. È vero che lo facevi, ma sono cambiate le situazioni e tu cosa hai fatto perché lui non lo facesse? Perché lui non lo potesse fare? Perché, ripeto, la relazione è bidirezionale, è una costruzione. E mi piace anche, se ho ancora un attimino di tempo, vedere quali sono le componenti della fiducia, perché parlare di fiducia è molto semplice, no? È un termine molto utilizzato, ma è un termine difficile, secondo me, da capire. È uno stato psicologico difficile da descrivere. Perché guardate che nella fiducia ci sono tre componenti. C'è una componente cognitiva. Come posso capire se l'altro mi sta fregando o no? Ok? Questo lo capisco con la testa. C'è una componente affettiva. Quanto io mi posso fidare dell'altro? Quanto io posso contare sull'altro? Ma guardate che la fiducia richiama una terza componente, che di solito ci dimentichiamo perché è quella che ci fa fare più fatica, che è la componente prosociale, che è la componente etica e morale, che vuol dire che io devo aiutare un altro a capire ciò che ha valore in una relazione che è una relazione donativa. Perché qui si ritorniamo alle origini. Cos'è che fonda la nostra relazione di fiducia? Il fatto che qualcuno gratuitamente ci ha donato la vita. Cos'è una relazione? È un'apertura di credito nei confronti di un altro. Quando noi apriamo questo credito? Quando sentiamo che qualcuno ci ha donato qualcosa, siamo grati, riconosciamo di avere ricevuto qualche cosa, in virtù di questo ci fidiamo dell'altro e diamo valore a quella relazione. Quando diciamo che guardiamo i nostri ragazzi con uno sguardo non di fiducia, ma di sfiducia, stiamo dicendo qualcosa della nostra relazione con loro, eh? Non stiamo solo dicendo di qualcosa che è uno stato psicologico loro. Stiamo dicendo che non siamo disposti ad accettare la loro fragilità e la loro vulnerabilità. Perché se non siamo disposti a scommettere su di loro, vuol dire che non li riteniamo capaci o degni di scommessa. La fiducia vive di due momenti, due situazioni, no? Io do fiducia a qualcuno che ritengo degno di fiducia. Se non scommetto sugli adolescenti, vuol dire che non li ritengo degni di fiducia. Ma santa polenta, possibile che questi ragazzi non sono in assoluto per nulla degni della fiducia dell'adulto? Possibile che non hanno delle capacità per cui io dico scommetto su di te? Non so se mi sono spiegata. Guardate che la fiducia ci riporta al tema degli ideali. Io scommetto su di te perché riconosco in te gli ideali che io ho. La fiducia non è né a difesa di sé né a difesa dell'altro. La fiducia è a difesa delle relazioni, ma noi non cresciamo senza relazioni. Per questo è importante che gli adolescenti sentano su di sé fiducia in famiglia, ma anche nel contesto sociale. Perché talvolta le famiglie fanno fatica. Fare i genitori, lo diceva già Freud, è una delle cose più difficili di questo mondo, lo sarà sempre. Ok? Ed è possibile fare fatica. Ma accettando questa fatica e provando ad assumere un altro sguardo insieme ad altri, possiamo costruire quel contesto relazionale che favorisce la crescita. E favorisce la crescita proprio perché tiene insieme lo sguardo sulle competenze e lo sguardo sulle fragilità e sulle vulnerabilità. Così si costruiscono relazioni significative, così si costruisce la fiducia. Capite perché la fiducia è un collante sociale, è alla base delle relazioni? Perché la fiducia difende le relazioni valorizzando e sostenendo l'altro per quello che è nelle sue capacità. Io dico sempre, discuto sempre molto, no, su che cos'è eccellenza. Come istituti formativi molto spesso, no, facciamo una selezione sulla base di quella che è ritenuta l'eccellenza misurata con la prestazione scolastica. Ma la misura dell'eccellenza sulla prestazione scolastica mi riporta degli standard che mi trasformano le persone in numeri, non nella pienezza delle persone. Eccellenza vuol dire che tu prendi in considerazione cosa quella persona è capace di fare e la porti al massimo delle sue capacità. Questo è essere un'istituzione che promuove eccellenza. L'eccellenza misurata sulla base di quello che quella persona lì sa fare. Quella persona non arriverà ad essere il mega manager, ma chi se ne importa? Sarà un bravissimo artigiano e va benissimo. Le sue capacità sono diverse da quelle del mega manager e le ha potenziate al massimo, ha realizzato al massimo il suo desiderio, il suo sogno, i suoi talenti e per questo si sente sicuro dentro, perché qualcuno ha accettato la sua fragilità, la sua vulnerabilità e l'ha valorizzata e gli ha consentito di crescere. Vi ricordate, la Silvia Vegetti Finzi dice, la generazione dei giovani è la prima generazione senza le ginocchia sbucciate. Perché neanche quelle consentiamo che succeda, neanche quello consentiamo che succeda. Devi essere iperperformante e non devi farti male, per l'amor del cielo. Ma sbucciati un po' le ginocchia. Forse la seconda volta impari a non sbucciartele più, impari che si fa la crosta e impariamo a crescere. Accettare che l'altro sia vulnerabile non vuol dire sostituirsi, ma vuol dire avere uno sguardo che promuove davvero la crescita e riconosce l'altro nella sua pienezza. E non per quello che gli standard ci dicono che l'altro deve essere. Perché se poi lo standard è lo standard iperperformante, per cui se io non lo raggiungo mi ripiego su di me perché mi vergogno, è certo che poi allora facciamo la lettura proprio la più negativa possibile, abbiamo tutti quei fenomeni di isolamento sociale che ormai sono arrivati anche nelle nostre società. Ok? Non sto dicendo che non vedo il negativo e gli estremi, ma sto dicendo che talvolta noi vediamo solo quello. E questo frega gli adolescenti, non noi come adulti, che ormai tutto sommato. Allora, l'importanza dello sguardo e di come questo sguardo può far scegliere a questi ragazzi che sono un po' in balia del mare, che un po' vogliono andare fuori dal porto, ma un po' vogliono tornare indietro, possono scegliere e decidere di andare in questo benedetto porto, nella consapevolezza di non essere soli. Ma che c'è un adulto che si assume, su questo ritornerò dopo, una responsabilità educativa, che è fatta di fermezza, ma anche di tolleranza, soprattutto delle fragilità.